Mi accostai alla finestra e scostai le tende. Grigio, plumbeo penetrò il mattino nella stanza. Poi spensi le candele agonizzanti. Nella stanza attigua erano ancora tutti seduti intorno alla tavola. I domestici avevano rinnovato le candele. Con la sua illuminazione festosa, tutta la sala faceva l'effetto di un altro mondo. Dovette disdire il ballo, Giuseppe, dissi. Giuseppe si riscosse. Doveva aver sonnecchiato col mento sul petto. Che cosa? Ah, siete voi, Desiree. Dovete disdire il ballo, Giuseppe, ripetei. È impossibile! Ho dato espresso ordine che. Ma avete un morto in casa, gli dissi. Lui mi guardò con la fronte corrugata, poi si alzò in fretta. Ci penserò, mormorò, e si avviò per uscire. Durante la mattina udii un picchiar di martelli, scesi e vidi che si stava costruendo un podio nel salone. Giuseppe era in piedi in un angolo e impartiva ordini agli operai, in italiano. Finalmente poteva parlare ancora la sua lingua materna. Quando mi vide entrare, mi corse subito incontro. È la tribuna per il ballo. Da qui Giulia ed io osserveremo le danze. Per il ballo? Dissi meravigliata. Ma non potete dare il ballo? No, non col morto in casa, avete ragione. Per questo abbiamo fatto portare via la salma del compianto Dufaux. Si infervorava. Ho dato ordine di deporre solennemente il corpo di Dufaux in una cappella mortuaria, con la maggiore solennità possibile, perché in fin dei conti si tratta di un generale dell'esercito francese e il ballo ci deve essere, si capisce. Anzi, adesso è più importante di prima. Dobbiamo dimostrare che a Roma regnano l'ordine e la calma. Se l'avessi rimandato, si sarebbe detto subito che non siamo padroni della situazione. E quel che è avvenuto, per la verità, non è stato che un incidente, senza importanza, anche se deplorevole, mi capite? Accennai di sì. Il generale Dufaux ha abbandonato la sua amante e suo figlio per sposare me. Il generale è andato temerariamente incontro ad una folla inferocita per fare impressione su di me. Il generale è stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco, un incidente senza importanza, per quanto deplorevole. Devo parlare d'urgenza con vostro fratello, Giuseppe. Con quale? Con Luciano? No, col vostro glorioso fratello, col generale, con Napoleone. Giuseppe si sforzò di nascondere il suo stupore. La famiglia sa che finora ho sempre evitato di incontrarmi con Napoleone. Si tratta dei familiari del generale Dufaux, dissi seccamente e uscii dalla sala. Gli operai martellavano come forsennati. Quando rientrai in camera mia, trovai nel mio letto Giulia annegata nelle lacrime. Mi sedetti accanto a lei ed ella mi buttò le braccia al collo e prese a singhiozzare come una bimba. Voglio andare a casa, piagnucolava. Non voglio abitare in questi palazzi forestieri. Voglio avere una casa mia, come tutta la gente per bene. Che cosa facciamo qui, in questo paese straniero, dove ci vogliono uccidere a fucilate? E in questi spaventosi castelli, dove fa sempre freddo, e in queste stanze, così terribilmente alte, alte come una chiesa. Noi non siamo di qui. Voglio tornare a casa. La strinsi a me. La morte del generale Dufaux ha fatto sentire a Giulia quanto ella sia infelice in questo paese. Un po' più tardi arrivò una lettera di mamma da Marsiglia. Ci accoccolammo l'una accanto all'altra sul mio letto e leggemmo ciò che mamma ci comunicava con i suoi irregolari caratteri inclinati. Stefano ha deciso di trasferirsi a Genova con Susanna per aprirvi una succursale della ditta Clary. I commercianti francesi hanno oggi a Genova delle grandi possibilità e ormai il commercio della seta si può praticare con buon successo, specialmente dall'Italia. Così scrive mamma. E poiché non vuole restare sola a Marsiglia, ha intenzione di andarsene a stare a Genova con Stefano e con Susanna. Lei suppone che per ora io continuerò a vivere con Giulia e spera che con l'aiuto di Dio io possa trovare presto un buon marito affettuoso, ma non dovrò a nessun costo lasciarmi forzare da chiunque sia. E così Stefano vorrebbe vendere la nostra casa di Marsiglia. Giulia aveva cessato di piangere. Tutte e due ci guardavamo in faccia, atterrite. Così non abbiamo più una casa? Bisbigliò lei. Io trangugiai le mie lacrime. Beh, in ogni maniera tu non saresti ritornata mai nella nostra villa di Marsiglia, dissi. Giulia guardava fissamente fuori dalla finestra. Non lo so, no, certo, ma era tanto bello poter pensare alla nostra casa e al giardino e al padiglione. Sai, in tutti questi mesi nei quali siamo passati di palazzo in palazzo, E io mi sono sentita tanto infelice. Ci ho sempre pensato, non ho mai pensato alla casetta di Giuseppe a Parigi, ma sempre alla villa di papà a Marsiglia. In quel momento bussarono. Entrò Giuseppe e Giulia subito scoppiò un'altra volta in lacrime. Voglio tornare a casa, gli disse piangendo. Lui si sedette sul letto accanto a noi e la prese tra le braccia. E ci tornerai, rispose lui affettuosamente. Questa sera diamo ancora questo grande ballo e domani partiamo. Torniamo a Parigi. Ne ho abbastanza di Roma. Strinse le labbra, premette il mento contro il collo, facendosi un po' di pappagorgia e si immaginò di avere un aspetto molto importante. Chiederò al governo che mi si affidi una nuova missione, forse più importante. Sei contenta di tornare nella nostra casa di Rue du Rocher, Giulia? Solo se Desiree verrà con noi, singhiozzò Giulia. E si volse a me con la faccia bagnata di lacrime. Staremo bene insieme a Parigi, noi tre, tu, Giuseppe ed io. Tu non puoi farti un'idea, Desiree, di quanto sia stupenda Parigi. È una città immensa. E le vetrine, tutte le luci che di notte si rispecchiano nella Senna. No, tu non ci sei mai stata, non puoi immaginartelo. Poi Giulia e Giuseppe se ne andarono a impartire gli ordini per il nostro viaggio imminente ed io ricaddi sul mio letto. Gli occhi per il lungo vegliare mi bruciavano. Rievocai il mio incontro con Napoleone e cercai di ricordarmi il suo volto, ma davanti alle mie palpebre chiuse emergevano soltanto i lineamenti falsi, vitrei, che oggidì ci sorridono dalle tazzine da caffè, dai vasi da fiori e dalle tabacchiere. E poi anche questo volto di porcellana fu cancellato e sopraffatto. Dalle luci che la notte danzano nelle acque della Senna e che non riesco a dimenticare. Parigi, fine di Germinale dell'anno sesto, tutti fuorché la nostra Repubblica datano aprile 1798. Ebbene, l'ho riveduto. Siamo stati invitati da lui a una festa di commiato. Sta per imbarcarsi tra pochi giorni con un esercito per l'Egitto. E ha detto a sua madre che dalle piramidi riunirà l'Oriente all'Occidente e farà della nostra Repubblica un impero mondiale. Madame Letizia lo ha ascoltato tranquilla e poi ha domandato a Giuseppe se per caso non le si nasconda che Napoleone ogni tanto soffra di attacchi di malaria, perché quel suo povero ragazzo non ha, le sembra, la testa a posto. Ma Giuseppe ha spiegato minutamente a lei, a Giulia e anche a me che in questo modo Napoleone annienterà gli inglesi, ridurrà semplicemente in frantumi tutta la loro potenza coloniale. Napoleone e Giuseppina abitano in una piccola casa della Rue de la Victoire. Questa casa era una volta della Torre Talma e Giuseppina l'aveva a suo tempo acquistata dalla vedova di lui. A suo tempo, cioè in quei giorni nei quali ella al braccio di Barras attraversava i saloni di Madame Tallien, solo che allora la strada si chiamava Rue Catherine. Ma dopo le vittorie di Napoleone in Italia, il Consiglio Municipale di Parigi deliberò di cambiare in onor suo il nome e da quel tempo si chiama Rue de la Victoire. È incredibile quanta gente si pigiava ieri in questa piccola casa piuttosto meschina, nella quale, oltre alla stanza di soggiorno, non vi sono che due minuscoli salotti. Se ripenso a tutte quelle facce e a tutte quelle voci, mi si confonde ancora il cervello. Ieri l'altro mi sono fatta tagliare i capelli. Al tempo suo, Giuseppina è stata la prima parigina con i capelli corti, ma adesso tutte le signore alla moda imitano i suoi riccioli da bambina pettinati all'insù. I miei capelli sono per questo troppo fitti e pesanti e io non ho purtroppo dei riccioli eleganti, ma mi spazzolo i capelli corti all'insù e li fermo in alto con un nastro di seta. Il mio abito nuovo ha una scollatura molto ampia. Ma da molto tempo non ho più bisogno di ficcarmi dei fazzoletti in seno. Al contrario, mi sono anzi proposta di mangiare pochi dolci, altrimenti diventerò troppo grassa. Ma il mio naso è sempre voltato all'insù e me lo dovrò tenere così fino al termine della mia vita. Questa è una cosa triste, specialmente adesso che, dopo la conquista dell'Italia, tutti sono fanatici dei profili classici. Prima fui serrata al seno da Madame Letizia e poi freneticamente abbracciata da Madame Leclerc. Madame Leclerc, la piccola Paulette, aveva dichiarato prima del suo matrimonio: Leclerc è l'unico ufficiale tra i nostri conoscenti del quale io non sono assolutamente innamorata. Ma Napoleone trovò che con tutti i suoi intrighi amorosi ella poteva pregiudicare il buon nome della famiglia Bonaparte e insistette perché le nozze avvenissero. Leclerc è corto di gambe, corpulento e molto energico, non ride mai e sembra assai più vecchio di Paulette. C'era anche Elisa col suo marito Bacciocchi, dipinta come un soldatino di piombo, ed era piena di boria per la carica importante che Napoleone ha procurato in un ministero al suo musicale consorte. Carolina e la figlia di Giuseppina, la bionda e angolosa Hortense, avevano avuto il permesso di lasciare per un giorno il loro aristocratico convitto femminile per augurare buona fortuna al loro vittorioso fratello e patrigno partente per le piramidi. Ora se ne stavano accoccolate insieme su una seggiolina sgangherata e ridacchiavano sul conto del nuovo abito di broccato di Madame Letizia che ricorda le tende della stanza da pranzo. Tra tutti i rumorosi e sempre agitati Bonaparte, mi colpì un giovane in uniforme, quasi ancora un ragazzo, esile e biondo, con una sciarpa da aiutante, che fissava con i suoi occhi azzurri e quasi smarrito la bella Paulette. Domandai a Carolina chi fosse, e lei quasi soffocò tra le risa represse prima di potermi annunciare il figlio di Napoleone. Il giovane sembrava avere indovinato la mia domanda, perché si fece strada tra la folla e mi si presentò Eugenio de Beauharnais, aiutante personale del generale Bonaparte. I soli, che finora non si erano fatti vedere, erano i padroni di casa, Napoleone e Giuseppina. Finalmente si aprì una porta e Giuseppina si affacciò gridando: «Scusateci, cari, scusateci tanto! Siamo rincasati proprio adesso! Giuseppe, vi prego, venite qui un momento! Napoleone desidera parlarvi! Voi fate intanto pure il comodo vostro, cari, verrò subito!» E scomparve. Giuseppe le tenne dietro e Madame Letizia alzò le spalle indispettita. Noi riprendemmo a parlare tutti insieme, ma improvvisamente ammutolimmo. Nella stanza attigua sembrava che qualcuno fosse stato colto da un accesso di furore. Un pugno calò violentemente su qualche cosa che doveva essere un tavolo o il piano di un camino e un oggetto di vetro si spezzò tintinnando. In quel punto sgattaiolò fuori Giuseppina. «Che bella cosa, la famiglia tutta riunita!» sorrise e si diresse verso Madame Letizia. L'abito bianco le inguainava la delicata persona. Uno scialle di velluto rosso sangue guarnito d'ermellino le posava molle e lento sulle spalle nude e qua e là scivolava da parte, facendo risaltare il candore del suo collo infantile. Dalla stanza vicina udivamo adesso la voce conciliante di Giuseppe. «Luciano? Non avete un figlio che si chiama Luciano?» disse ora Giuseppina volgendosi a Madame Letizia. «Il mio terzo figliolo, ebbene?» Che cosa c'è che lo riguarda? Madame Letizia lanciò a Giuseppino uno sguardo pieno di livore, una nuora che non si dà neppure la briga di imparare a memoria i nomi dei suoi cognati e delle sue cognate. Ha scritto a Napoleone d'essersi sposato? Disse Giuseppina. Lo so, rispose Madame Letizia, e gli occhi le si fecero piccoli piccoli. Forse il mio secondogenito non approva la scelta di suo fratello? Giuseppina scosse le sue spalle delicate e sorrise. Sembra che sia proprio così. Non udite come urla? L'accesso di furore nella stanza attigua sembrava divertirla straordinariamente. A un tratto l'uscio si spalancò e Napoleone comparve sulla soglia. Il suo viso magro era paonazzo dalla collera. Mamma, lo sapevi tu che Luciano ha sposato la figlia di un padrone di trattoria? Madame Letizia squadrò Napoleone dalla testa ai piedi. Il suo sguardo passò dai capelli rossocastani arruffati che gli ricadevano in disordine fin sulle spalle all'uniforme affettatamente semplice che doveva essere stata cucita dal migliore dei sarti militari, fino alla punta degli stretti, elegantissimi e lucenti stivali. «Che cosa non trovi di tuo gusto in tua cognata Christine Boyer da San Massimino, Napoleone? Ma non mi capite?» La figlia di un'oste, una zotica di villaggio che tutte le sere serve nell'osteria ai contadini dei dintorni? Mamma, io non ti capisco. Christine Boyer, per quanto so, è una gran brava ragazza e ha un'eccellente reputazione, disse Madame Letizia, e i suoi occhi sfiorarono di sfuggita la sottile bianca figura di Giuseppina. E poi, alla fine, non possiamo sposare tutti delle ex contesse. Questa era la voce di Giuseppe. Le ali del naso di Giuseppina incominciarono a tremare impercettibilmente, ma il sorriso di lei si irrigidì ancora di più. Eugenio diventò rosso come la brace. Napoleone ebbe uno scatto e fissò in viso Giuseppe. Sulla sua tempia destra la piccola vena pulsava, poi passò la mano sulla fronte. Si staccò di colpo da Giuseppe e disse in tono tagliente: «Io ho il diritto di esigere dai miei fratelli dei matrimoni conformi alla loro condizione. Mamma, io desidero che tu scriva immediatamente a Luciano e gli dica che dovrà divorziare o farò annullare il matrimonio. Scrivigli che lo esigo. Giuseppina, possiamo finalmente metterci a tavola». In quello stesso momento il suo sguardo cadde su di me. Per una frazione di secondo i nostri occhi si agganciarono. Fu questo il temuto, odioso e tanto desiderato rivederci. Di colpo si staccò dalla cornice della porta, diede una spinta all'angolosa Ortensia che gli impediva il passo e afferrò le mie mani. «Eugenia, sono veramente lieto che abbiate accettato il nostro invito». I suoi occhi non si staccavano dal mio viso. Adesso egli sorrideva, i suoi magri lineamenti apparivano così giovanili e sereni, proprio come allora, quando aveva promesso a mamma di aspettare a sposarmi fino a che avessi compiuto 16 anni. «Vi siete fatta molto bella, Eugenia. E poi, siete cresciuta anche, vi siete fatta ormai». Sciolsi le mie mani dalle sue. «In fin dei conti ho 18 anni. La mia voce era goffa ed incerta ed è molto tempo che non ci siamo più visti, generale». Questo fu detto un po' meglio. «Sì, è molto tempo. Troppo, Eugenia, non è vero? L'ultima volta. Dove ci siamo visti l'ultima volta?» Cercò il mio sguardo e rise. Piccole scintille gli danzavano negli occhi mentre pensava al nostro ultimo incontro e lo trovava molto buffo, straordinariamente buffo. «Giuseppina, Giuseppina, devi conoscere Eugenia, la sorella di Giulia. Ti ho parlato tanto di Eugenia». «Ma Giulia mi ha detto che Mademoiselle Eugenia preferisce essere chiamata Désirée». Così dicendo, la sottile figura bianca si accostò a Napoleone. Nulla nel suo sorriso da Mona Lisa rivelò che ella mi riconosceva. «È stato molto gentile da parte vostra d'essere venuta, Mademoiselle. Ho da parlarvi, generale», dissi in fretta. Il suo sorriso si raggelò. «Una scena», pensò probabilmente, «oddio, una scena puerilmente sentimentale». «Si tratta di una cosa molto seria», soggiunsi. Giuseppina passò in fretta il braccio in quello di Napoleone. «Possiamo andare a tavola?» disse rapidamente e ripeté: «Prego, a tavola!» A tavola, sedetti incastrata fra il noioso Leclerc e il timido Eugenio de Beauharnais. Napoleone parlava ininterrottamente, rivolgendosi soprattutto a Giuseppe e a Leclerc. Avevamo già terminato la minestra e lui non aveva neppure incominciato a portarsi il cucchiaio alle labbra. «Abbiamo già terminato tutti la minestra? Incominciate a mangiare, Bonaparte!» La voce esuasiva di Giuseppina non fu udita. Mentre mangiavamo il pollo con salsa di asparagi, Napoleone spiegò alle due ragazze, Carolina e Ortensia, che cosa sono le piramidi. Poi ci toccò udire che dall'Egitto lui non solo avrebbe distrutto la potenza coloniale dell'Inghilterra, ma avrebbe insieme liberato anche gli egiziani. «Il primo ordine del giorno che indirizzerò alle mie truppe? Tonfete!» La sua sedia si rovesciò e cadde a terra. Egli era balzato in piedi, si era buttato in avanti per ripiegarsi subito, seguendo una stretta linea curva. «Ecco, ascoltatelo, soldati! 40 secoli di lassù vi contemplano!» Si interruppe. «Perché le piramidi sono antiche così? Ed io emanerò quest'ordine del giorno all'ombra delle piramidi. E ascoltate ancora, voi sapete, il popolo tra cui andremo è musulmano. Io, il credo è questo, Dio è Dio, e Maometto è il suo profeta. I musulmani chiamano il buon Dio Allah», interruppe Elisa, che a Parigi aveva incominciato a leggere un monte di libri e continuamente ostentava la propria erudizione. Napoleone corrugò la fronte e fece con la mano un gesto come se scacciasse una mosca. «Questo lo accomoderò in qualche modo. Ciò che più importa è quel che segue. Non contraddite alla loro fede. Trattateli, voglio dire il popolo egiziano, come avete trattato gli ebrei e gli italiani. Date ai loro Fufti e Imam le stesse dimostrazioni di rispetto che già deste ai preti cattolici e ai rabbini». Fece una pausa e ci guardò tutti l'uno dopo l'altro. «Ebbene? Beh, è una gran fortuna per gli egiziani che le leggi della Repubblica ti prescrivano di liberarli nel nome dei diritti dell'uomo. intervenne Giuseppe. Che intendi dire con questo? Beh, che i diritti dell'uomo sono i fondamenti di quest'ordine del giorno e quelli non li hai inventati tu, disse Giuseppe. La sua faccia era priva d'espressione. Per la prima volta dopo tanti anni mi tornò in mente ciò che già avevo pensato a Marsiglia. Costui odia suo fratello. Hai scritto molto bene queste cose, figliuolo, intervenne subito in tono pacificatore Madame Letizia. Vi prego, Bonaparte, mettetevi una buona volta a mangiare. Dopo pranzo aspettiamo una folla di gente, disse Giuseppina. Napoleone incominciò obbediente a ingollare l'eccellente desinare. Il mio sguardo cadde per caso su Ortensia. La bambina? Ma no, a 14 anni non si è più bambine, lo so per mia esperienza. Dunque quell'angolosa ragazzetta, Ortensia, che non ha proprio alcuna somiglianza con la sua affascinante madre, fissava continuamente Napoleone con un paio d'occhi di un liquido azzurro acquosi e un po' sporgenti. Sulle sue guance ardevano delle piccole macchie rosse. Oh Dio! Ortensia è innamorata del suo patrigno, pensai, e trovai che ciò era tutt'altro che buffo, ma piuttosto triste e angoscioso. Mamma vorrebbe bere la vostra salute, disse, interrompendo i miei pensieri, Eugenio de Beauharnais. Afferrai in fretta il mio bicchiere. Il sorriso di Giuseppina mi salutò. Pian piano ella accostò il bicchiere alle labbra e quando lo posò di nuovo sulla tavola, mi diede una confidenziale strizzatina d'occhi. Giuseppina si rammentava molto bene di allora. Prenderemo il caffè in salotto, disse Giuseppina e si alzò da tavola. Nella stanza attigua già ci aspettava una quantità di gente, la quale intendeva impiegare quel pomeriggio augurando buon viaggio a Napoleone. Si sarebbe detto che tutti gli antichi visitatori di Madame Tallien cercassero adesso di introdursi nel piccolo appartamento di Giuseppina in Rue de la Victoire. Doveva essere arrivato un ospite di grande riguardo perché Giuseppina fece alzare 3 giovani che occupavano un piccolo sofà. E chi condusse a quel sofà? Barras, direttore della Repubblica Francese, tutto lilla e ricami dorati con il suo monocolo all'occhio. A destra e a sinistra di lui presero subito posto Giuseppe e Napoleone, e dietro gli si appoggiò un tipo magro, con un naso a becco d'uccello che già avevo veduto in qualche luogo. Eugenio aveva delle goccioline di sudore sulla fronte. Si sentiva in dovere di procurare in qualche modo un posto a sedere a ciascuno degli innumerevoli ospiti, e a un tratto fece accomodare la grassa Elisa e me su 2 seggiole che aveva collocato proprio di rimpetto al sofà sul quale troneggiava Barrà. Poi trascinò in avanti una poltrona dorata e costrinse a sedersi il direttore di polizia, Fouché. Ma non appena entrò un giovane elegante, un po' zoppo, che ormai contromoda portava i capelli ancora tutti incipriati, Fouché balzò di nuovo in piedi. Caro Talleyrand, sedetevi qui accanto a noi. I loro discorsi si aggiravano sull'ambasciatore della nostra Repubblica a Vienna, che si trovava in viaggio di ritorno verso la Francia. Sembrava che a Vienna fosse accaduto qualche cosa di grave. Dalla conversazione appresi che in un giorno festivo per l'Austria il nostro ambasciatore aveva inalberato a Vienna la bandiera della Repubblica e che allora i viennesi avevano dato l'assalto all'ambasciata per tirar giù la nostra bandiera. Non avreste dovuto mandare ambasciatore a Vienna un generale, ministro Talleyrand, bensì un diplomatico di carriera, intervenne Giuseppe. Talleyrand inarcò le sottili sopracciglia e sorrise. La nostra Repubblica non dispone ancora di un sufficiente numero di diplomatici di carriera, Monsieur Bonaparte. Dobbiamo cavarcela con quello che abbiamo. Anche voi avete supplito in Italia, non è vero? Giuseppe era toccato. Egli non era che un diplomatico supplente agli occhi di questo ministro Talleyrand, il quale a quanto pare dirige i nostri affari esteri. E d'altra parte, questa era la voce nasale di Barrà, e d'altra parte questo Bernadotte è una delle menti più capaci di cui disponiamo. Non lo credete anche voi, generale Bonaparte? Io mi rammento che una volta in Italia voi aveste bisogno di rinforzi urgentissimi. Allora il ministro della guerra incaricò proprio Bernadotte di condurvi in Italia la migliore divisione dell'armata del Reno. E questo guascone, nel cuore dell'inverno, riuscì ad attraversare in 10 ore le Alpi, 6 ore per la salita e 4 per la discesa. Se ben ricordo la vostra lettera d'allora, generale, voi ne foste molto impressionato. Costui è indubbiamente un ottimo generale, ma Giuseppe si strinse nelle spalle. Diplomatico? Politico? Oh, credo che fosse giusto issare la bandiera della Repubblica a Vienna. Perché non doveva essere imbandierata l'ambasciata francese quando da tutti gli edifici sventolavano le bandiere? Disse Talleyrand, meditabondo. Dopo la violazione della extraterritorialità che era stata riconosciuta alla nostra ambasciata, il generale Bernadotte ha subito lasciato Vienna, ma credo che le scuse del governo di Vienna lo raggiungeranno prima ancora che egli arrivi a Parigi. Talleyrand contemplava le unghie ben curate della sua mano, singolarmente sottile. Comunque, non potevamo mandare a Vienna un uomo migliore di lui, concluse. Un sorriso quasi impercettibile passò sul volto raso, bluastro dai tratti quasi evanescenti di Barrà. Un uomo politico che sa vedere lontano in modo sorprendente e dall'occhio politico. Il direttore lasciò cadere l'occhialino e piantò i nudi occhi addosso a Napoleone. Le labbra di Napoleone erano sottili, la vena sulla tempia pulsava. Un repubblicano convinto, soggiunse Barrà, risoluto a sterminare qualunque nemico della Repubblica esterno e interno. E quale sarà la sua prossima destinazione? Chi parlava adesso sollecito era di nuovo Giuseppe, il quale non riusciva a dominare la sua gelosia verso l'ambasciatore di Vienna. L'occhialino risfavillò. Ah, la Repubblica ha bisogno di uomini fidati, io posso ben credere che un uomo il quale ha incominciato la sua carriera militare come semplice soldato goda la fiducia dell'esercito, e poiché quest'uomo giustifica anche la fiducia del governo, sarebbe naturale il futuro ministro della guerra. Era il naso a punta che parlava, il direttore di polizia, Fouché. Barrà si premette ancora più l'occhialino sugli occhi e prese ad osservare con grande interesse la camicia dai pizzi veneziani. Non era proprio altro che una camicia di Teresa Taillien che ci comparve davanti. Oh, la nostra bella Teresa, sorrise. E si levò con fatica, ma Teresa fece un gesto per fermarlo. Oh, restate pure comodo, direttore. E qui ecco anche il nostro eroe d'Italia. Un meraviglioso pomeriggio questo, generale Bonaparte. Giuseppina, è davvero affascinante. E che cosa ho sentito dire? Che condurrete con voi alle piramidi come aiutante il piccolo Eugenio. Posso presentarvi Ouvrard, l'uomo che ha fornito 10.000 paia di scarpe alla vostra armata d'Italia? Ouvrard, eccovelo qui, in carne e ossa, il forte uomo di Francia. L'omino tondo che ella si tirava dietro si inchinò quasi fino a terra. Elisa, che mi stava accanto, mi diede un colpo nel fianco. Il suo nuovissimo amico, il fornitore militare Ouvrard. Fino a poco fa lei stava ancora con Barrà, che a suo tempo aveva portato via a Giuseppina, non lo sai? Ma adesso il vecchio pazzo se la dice con le ragazzine di 15 anni? Una cosa che non va, dico io. Si capisce che ha i capelli tinti. Non c'è nessuno che abbia i capelli neri a quel modo. Improvvisamente ebbi la sensazione di non poter resistere un minuto di più su quella sedia, accanto a Elisa che trasudava un profumo dolciastro. Scattai in piedi, mi feci strada per raggiungere la porta e andavo cercando, nella piccola anticamera, uno specchio per incipriarmi il naso. Nel vestibolo mi trovai immersa nella penombra. Prima ancora che portassi le candele tremolanti davanti all'alto specchio, indietreggiai spaventata. Due figure che stavano rintanate e strette in un angolo si staccarono. Balenò un abito bianco. Oh, scusate, dissi involontariamente. Rapida la figura bianca avanzò nella luce delle candele. Oh, ma di che? Giuseppina si aggiustò con un fuggevole gesto i riccioli infantili. Vorrei presentarvi Monsieur Charles Hippolyte. Questa è la leggiadra cognata di mio cognato Giuseppe. La cognata di mio cognato, però siamo anche parenti, non è vero, Mademoiselle Désirée? Un uomo molto giovane, di meno che 25 anni, mi fece un corretto inchino. Monsieur Hippolyte Charles, uno dei nostri più giovani e apprezzati. Che cosa siete, veramente, Hippolyte? Ah sì, fornitore militare. uno dei più giovani nostri fornitori militari. Giuseppina rideva sommessamente e aveva l'aria di divertirsi assai. Mademoiselle Desirée è una mia antica rivale, Hippolyte, aggiunse. Rivale vinta o vincitrice? Si informò subito Monsieur Charles. La risposta non venne. Si udì un tinnire di sproni e Napoleone chiamò Giuseppina. Giuseppina, ma dove vi siete nascosta? Tutti gli ospiti domandano di voi. Volevo soltanto far vedere a Mademoiselle Desirée e a Monsieur Charles lo specchio veneziano che mi avete regalato a Montebello, Bonaparte, disse Giuseppina, tranquilla. Prese per il braccio Napoleone e lo condusse presso Monsieur Charles. Vorrei presentarvi un giovane fornitore militare, Monsieur Charles. Il vostro ardente desiderio è appagato. Potete dare la mano al liberatore d'Italia. Il suo riso squillò fascinoso e subito cancellò l'ombra di irritazione che si era formata intorno alla bocca di Napoleone. Voi volevate parlarmi, Désiré? Napoleone si volse verso di me. Subito Giuseppina posò la mano sul braccio di quel monsieur Hippolyte Charles. Venite, devo dedicarmi di nuovo ai nostri ospiti. Restammo così, soli, l'uno di fronte all'altra. Nella tremula luce delle candele, io cominciai a frugare nella mia borsa Pompadour. Napoleone si era accostato allo specchio e guardava fisso il proprio volto. Le fiamme vacillanti delle candele gli creavano ombre profonde intorno agli occhi e facevano apparire incavate le magre sue guance. «Hai sentito quel che ha detto dianzi Barrà?» Era così profondamente immerso nei suoi pensieri che certo non si accorgeva di darmi del tu come nei momenti della nostra maggiore intimità. Fissò di nuovo lo specchio. «Nemici interni della Repubblica». Una bella frase, ha voluto alludere a me. Sa benissimo che oggi io potrei fare della Repubblica... Si interruppe, contemplò attentamente le ombre palpitanti del suo volto e si serrò tra i denti il labbro superiore. «Noi generali abbiamo salvato la Repubblica e noi, i generali, la teniamo in vita. Alla fine potrebbe anche venirci la voglia di formare il nostro proprio governo». Hanno tagliato la testa al re e da allora la corona sta in mezzo alla strada. Non c'è che da chinarsi e da raccattarla. Parlava come in un sogno e proprio come quella volta presso la siepe del nostro giardino mi prese prima una strana angoscia e poi una voglia infantile di liberarmene ridendo. A un tratto egli si voltò e la sua voce risuonò risoluta. Ma io adesso vado in Egitto. I signori direttori possono continuare ad accapigliarsi con i partiti politici, a farsi comprare dai fornitori militari e a lasciare affogare la Francia nel mare degli assegnati senza valore. Io vado in Egitto a piantare la bandiera della Repubblica. Perdonatemi se vi interrompo, generale, dissi. Ho scritto qui il nome di una signora e vi prego di disporre perché si provveda a lei. Mi prese il foglietto di mano e si accostò al candelabro. «Marie Meunier, chi è?» «È la donna che viveva col generale Dufaux ed è la madre del figlio di lui. Ho promesso a Dufaux che si provvederà per tutti e due.» Napoleone lasciò cadere il biglietto. La sua voce suonò carezzevole, in tono di compianto. «Ne sono addolorato, veramente addolorato. Voi eravate fidanzata con Dufaux, Désiré? Adesso devo gridargli in faccia che ne ho abbastanza di questa miseranda commedia, pensai.» «Voi sapete benissimo che ho appena avuto il tempo di conoscere Dufaux», disse Rauke. «Non capisco proprio perché mi tormentiate con queste storie, generale». «Con quali storie, piccola Désiré? Con tutte queste proposte di matrimonio, ne ho abbastanza. Voglio essere lasciata in pace». «Ma credetemi, solo nel matrimonio una donna può trovare il senso della vita», disse Napoleone patetico. «Io vi vorrei tirare in testa questo candelabro». Proruppi e affondai le unghie nel palmo della mano per non fare quello che dicevo. Egli mi si avvicinò e sorrise di quel suo sorriso ammaliatore che una volta era stato per me il paradiso e l'inferno. «Siamo buoni amici, Bernardine e Eugenia Désiré?» domandò. «Mi promettete che sarà corrisposta a questa Marie Meunier una pensione vedovile e al bambino un assegno come orfano?» «Ah, sei qui, Désiré! Vieni, sbrigati, dobbiamo andare.» Era Giulia, che con Giuseppe era entrata nel vestibolo. «Me lo promettete, generale?» ripetei. «Lo prometto, Mademoiselle Désiré.» Con un rapido gesto si portò la mia mano alle labbra, poi Giuseppe si interpose tra noi due e con molte manate sulle spalle prese congedo dal proprio fratello.